Ma emerge la preoccupazione che era stata già espressa quando furono pubblicati i primi bandi nel 2017, cioè la stragrande maggioranza delle ONG italiane si schierò pubblicamente contro questo tipo di interventi perché riteneva che non ci fossero da una parte le precondizioni per poter operare in modo trasparente ed efficace in un contesto così difficile come quello libico e dall'altra parte che ci fosse un forte rischio di dare una legittimazione a tutto il sistema territoriale che adesso conosciamo piuttosto bene, di respingimento dei migranti in mare e loro trasferimento in questi centri. Quindi l'idea di andare lì per rendere un pochino meno inumane le condizioni di questi centri va un po' contro quello che era l'etica di molte ONG che infatti si sono rifiutate di partecipare. Tra l'altro all'epoca ha creato sensazione il fatto che questi bandi uscissero quasi in concomitanza con l'accordo tra Italia e Libia, il memorandum. Certamente, perché infatti noi pensiamo, insomma, analizzando i documenti e la storia di questi bandi, che sono strettamente funzionali alla più ampia politica italiana rispetto alla Libia, che è una politica che noi chiamiamo di esternalizzazione, cioè di spostare la frontiera più lontano possibile dall'Italia verso paesi terzi come appunto la Libia. E la Libia è un paese a cui noi non finanziamo solo in parte la gestione dei centri di detenzione attraverso le ONG, ma abbiamo appunto donato motovedette con le quali respingono i migranti, abbiamo fatto formazione, stiamo facendo formazione alla Guardia Costiera Libica, cioè c'è tutta una serie di attività molto strutturate per contenere, ripeto, i flussi migratori e questi bandi, proprio per il motivo che dicevate voi, all'indomani del memorandum del 2017 ci danno un'indicazione di qual è la vera finalità di questi bandi, perché ripeto, i centri sono quelli in cui vengono messi i migranti dopo essere stati intercettati in mare dalla Guardia Costiera Libica che noi finanziamo attraverso altri progetti. Nello specifico nel rapporto ci sono tre punti, diciamo così, se vogliamo semplificare un po', tre punti critici delle attività delle ONG che sottolineate. Sì, ci sono alcuni punti critici. Innanzitutto alcuni di questi interventi, noi questo l'abbiamo preso dai rendiconti sulle spese sostenute che l'Agenzia per la Cooperazione ci ha trasmesso a seguito di richieste di accesso civico, abbiamo scoperto ad esempio che di questi interventi non vanno solo a beneficio di quelli che sono detenuti nei centri, ma beneficiano anche le strutture stesse, per cui abbiamo interventi di ripristino ad esempio anche di cancelli o coperture, cioè addirittura infrastrutture che servono a rendere più difficile per le persone detenute allontanarsi dai centri. Questo è grave contando che si sa benissimo che cosa succede in questi centri. Ma altri interventi sempre a beneficio delle strutture sono appunto volti a, secondo noi, a mantenerle anche in efficienza, quindi a far sì che in futuro queste strutture possano ospitare nuovi detenuti. Un altro profilo secondo noi piuttosto preoccupante, ma questo già i bandi lo dicevano già, che molti dei centri sono gestiti non dal governo libico ma da milizie armate e ovviamente l'intermediazione di queste milizie è indispensabile, è inevitabile nel momento in cui sono loro a gestire i centri e quindi noi ci chiediamo quale ruolo abbiano avuto queste milizie nel momento in cui si tratta di gestire degli aiuti umanitari o comunque finanziari e abbiamo trovato dei rendiconti delle ONG che sono molto approssimativi e quindi ci chiediamo se non possano queste approssimazioni nella rendicontazione, ecco, se non possa escludere che almeno parte dei soldi del contribuente italiano siano finiti in realtà nelle tasche sbagliate. Voi avete chiamato l'agenzia ma anche l'ONG a un confronto pubblico? Sì, abbiamo chiesto a chi è interessato, abbiamo fatto appello a partecipare a un confronto pubblico che si terrà il 27 di questo mese alle 15. Se visitate il sito di ASGI troverete anche il link per partecipare, sarà anche possibile seguirlo sul canale YouTube di ASGI, quindi chiunque anche dei vostri ascoltatori sia interessato a partecipare lo può fare tranquillamente. Speriamo che sia AICS sia l'ONG partecipino in modo da avere, se possibile, più informazioni, più trasparenza su quanto è successo. Sta succedendo, alcuni progetti sono ancora in corso.